24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Da oggi Milano ha un nuovo nome, Teheran. È una sentenza bestiale, direi, nel senso che ha un contenuto che non ha niente a che vedere con la civiltà del diritto. Milano come Teheran. Io vivo a Teheran, per esempio, ecco. Peter Bescapè vive a Teheran, lo saluto in regia. Elisabetta Fusconi vive a Teheran ed è lì in redazione. Tutti a Teheran. Ma io dico... Sì, non ce la contraffi dai tre. Milano, sei proprio un coglione. Ecco. Ma è possibile che sei un pevago di lavori in radio? Nel mondo va così. Io. Vabbè, pazienza. Vabbè. Vincino, buongiorno, giorno. Buongiorno. Vincino non da vive Roma. A Roma. Vincino non vive a Teheran. Ecco. Io vivo a Teheran, per esempio, per Giuliano Ferrara. Ma io dico una cosa, la dico subito. Se c'era la soluzione, poi si arrabbiavano in Egitto perché avevamo diffamato la nipote di. Adesso rischiamo che si incazzino a Teheran, che quelli poi hanno la bomba atomica. Guarda che sta in galera in Egitto, dai, non si arrabbiava nessuno. No, vabbè, allora era meglio far arrabbiare l'Egitto di Teheran. Appunto, a maggior ragione. Teniamoci buoni gli ayatollah. A maggior ragione, teniamoci buoni gli ayatollah, insomma, perché qua non si sa. Amica, se livello sghirivizzo è due minuti. Comunque, Milano è come Teheran. Possiamo aprire il nostro Parlamento? Sì, sì, lo facciamo. Allora... Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Che poi la Minetti... Vincino, ma c'entra in questo processo? Cioè, in qualche modo, sì, perché... Da poco l'arrestano pure a quello. C'è cioè, proprio Nicole Minetti... Tutti i testimoni là, indagati e cosa... Questa è la cosa... Cioè, secondo me la cosa eccessiva è questa qua dei testimoni. 30 testimoni. E certo, perché la versione è questa. Allora Berlusconi è stato condannato a 7 anni, con una pena più alta rispetto a quello che ha chiesto addirittura la procura. E a questo punto l'unico modo per condannarlo era ritenere tutte le testimonianze dei testimoni false. Ma quando mai si è visto un processo in cui finisce con tutti i testimoni rinviati a giudizio? Ma non è che non credo che siano già stati rinviati a giudizio. Rischiano ora un processo per falsa testimonianza. Nella sentenza è detto tutti i testimoni saranno passati alla procura per vedere se devono essere condannati o arrestati. Come dire, quale processo hai visto con 35 testimoni di No, ma io guarda, in questa cosa la vedo in una maniera talmente asettica, cioè posso dirla un po' con un francesismo, non me ne può fregare quasi di meno. Me quasi nemmeno, non è che me ne frega più di tanto. Cioè ho la sensazione, non so se c'è anche tu Vincino, che sia un'attenzione spasmodica per una cosa importante, ha fatto il giro del mondo, ma forse alla quale viene data troppa importanza rispetto a quello che ha. Ci sono anche altre cose, altri problemi, però parliamo di quello. Tra l'altro siamo con Vincino, Vincino, stiamo cercando di collegarci con Adinolfi. Mario, sai dov'è Mario Adinolfi? Quale tavolo di giù? Sì, infatti è proprio così, sta a Las Vegas. Lui, sta a Las Vegas, ti rendi conto? Guarda. Altro che Nicole Minetti, forse lo abbiamo recuperato. Mario Adinolfi, eccoci, buongiorno. Buongiorno, ma dove buongiorno. Stai? A Las Vegas sempre, ma c'è cioè, Vincino. Felice lui. C'è Vincino, vogliamo farti risentire Ferrara, perché Adinolfi qua, io sto a Milano e quindi come dice Giuliano Ferrara... Chi è? Non c'è Giuliano Pronto. Ferrara. Milano ha un nuovo nome, Teheran. È una sentenza bestiale. Teheran. Adinolfi, io sto a Teheran, per esempio, con gli ayatollah, tutta la gente che gira in turbante oggi. Giuliano ovviamente esagera, però non è una sentenza bella, secondo me. Ho scritto anche a caldo che non mi convince l'idea che la cosa più grave che abbia fatto Berlusconi è la storia dei rubi, insomma, 7 anni mi sembra oggettivamente una condanna abnorme, addirittura superiore alla richiesta del pubblico ministero. Sì, effettivamente c'erano reati più gravi, no, di cui ha risposto Berlusconi nella percezione pubblica. Ho scritto su Twitter che insomma questo è uno strano paese in cui se ammazzi Marta Russo ti danno 6 anni e se vai con Rubide ti danno 7, francamente non... Non si capisce. L'hanno trovato che ha ammazzato Marta Russo. A me mi sa di... L'hanno trovato che ha ammazzato Marta Russo. Ma io no. Per lo Stato sì, la sentenza passata in giudicato dice che Scattone ha ucciso Marta Russo. Effettivamente il paragone non è... Il paragone è molto impattante, Mario. Il paragone è molto forte, cioè è molto, fa molto impatto, no? 6 anni per un omicidio e qui 7 anni per... Non un omicidio qualsiasi, ripeto. Ho la percezione che questo sia un grosso passo falso della magistratura milanese, credo, potrà essere un boomerang, lo dico da uomo di sinistra, secondo me questa è una questo è un grave errore, è un grave showdown. Mi piace di no. Vincino dice che ho capito. Adinolfi ha anche scritto che a questo punto, lo ha detto anche qua settimana scorsa, caro Vincino, Berlusconi diventerà sempre più il Beppe Grillo nel senso, a questo punto dice, ma che gli fa fare di starsene in Parlamento, ma prenda questa interdizione pubblici uffici, stia fuori e bastoni politicamente da fuori, no? Faccia quello, no, che rovina tutte le situazioni, che dà contro tutti, dà addosso. Vincino potrà fare così? Sì, come dire, poi sovventare, come è anche stanco secondo me, no? Cioè, è anche, sai, tutte queste, una dopo l'altra, tutte queste cose, ma sai, poi politicamente uno anche un po' s'appanna in parte. S'appanna un po'. Io però, sì, s'appanna. Un'altra cosa pensavo però, era questa qua. Tutti parliamo del referendum sul finanziamento pubblico, ma il referendum sui magistrati dell'87, 86, non mi ricordo più, che abbiamo vinto. Cioè, ma voi dove... radicali. Noi radicali abbiamo vinto, ma dove è andata a finire? Cioè, ma perché non sono, come dire, non dovrebbero essere i primi magistrati a dire, guardate, c'è un referendum che, come dire, bisogna rispettarlo, no? Quello della responsabilità civile dei magistrati. Ho capito, ma in questo caso, cioè, stando a questa sentenza di primo grado, hanno dato addirittura di più di quello che ha chiesto la procura. Ma perché sono responsabili, possono fare quello che vogliono, possono dare 26 anni a Perugia ad Andreotti per omicidio. Ho capito, ma Vincino, che dobbiamo fare? Volta dopo, e poi la volta dopo non è successo niente. Sì, però no. Io adesso, uscendo dalla questione Berlusconi, abbattiamo la credibilità della magistratura, ma che quella che è già abbattuta per i fatti suoi. Ah, è già abbattuta. No, allora, ti spiego, a me mi piace ad esempio, lui sta a Las Vegas, là uno deve essere... senza alcun dubbio, se c'è un minimo dubbio deve essere assolto. Qua no, il contrario, qua è la prova logica, cioè non ci sono prove, non c'è niente, però a me invece no, attenzione. No, effettivamente Adinolfi, oggi Ferrara parla del caso Strauss-Kahn, dice Strauss-Kahn in America è stato accusato di stupro da una persona, prova specifica, si è fatto, cioè c'era una persona che accusava frontalmente un'altra persona di avere, mica come in Italia, scrive Ferrara, dove insomma tutto poi si butta lì nel pastoio. Guarda, la mia lunga consuetudine con gli Stati Uniti mi racconta una nazione dove la giustizia è tenuta in altissima considerazione dai cittadini, non fosse altro perché poi le sentenze vengono emesse sono da giudici popolari, e questo è il primo passaggio, quindi non c'è una discussione sulla giustizia negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la giustizia funziona, è credibile, è durissima, perché qui io sto assistendo a processi in queste settimane pazzeschi in cui per sequestro e stupro ti danno 370 anni di carcere, 370 anni, la passi tutta, non è che ti danno poi la libertà subito. E sono dure, sono lunghi 370 anni, uno in galera 370 allora, anni non passano. Se Berlusconi fosse stato condannato in America, in primo grado di giudizio a 7 anni, sarebbe stato tradotto in carcere immediatamente, tanto per essere chiari come funziona il sistema qui. Poi si vede, come si dice alla romana, insomma. Allora, noi abbiamo un sistema insieme morbidissimo, ma allo stesso tempo, purtroppo, a mio avviso, non credibile dagli occhi dei cittadini, cioè, per carità, poi si tifa, per cui se anti-berlusconiano dice viva, hanno condannato ma infatti... quel giorno... il giorno che condanneranno penati, gli altri diranno è vivo. Ma infatti questa è una roba incredibile. Questo è il vero problema. No, ma infatti io dico una cosa, l'idea di un cittadino di andare, qualsiasi cittadino, di andare davanti al tribunale, di non della sentenza Berlusconi, ma di, per stare a protestare. Sentite ieri cosa è successo. Cioè, Berlusconi si è messo in politica per non andare in galera. L'ha detto lui. Oh, cittadini del mio stesso paese, io non ci voglio credere. Vincino, questi sono cittadini di Teheran e del tuo stesso paese, della tua stessa nazione. Ma che fate lì? Mandate in una bocciofila a giocare, mandate a giocare a carte, andate a lavorare. Cosa fanno lì, Vincino? Cosa fanno? Cittadini, cosa fanno? Andate ad aiutare le vecchiette a attraversare la strada, fate i nonni, quelli che fermano il traffico, aiutate i bambini. Cosa ci fate lì? Ne abbiamo troppi in pensione anticipata, con la giugulare di fuori a dire Berlusconi, D'Alema! Ma cosa fanno lì? Cioè, io non lo so, ma è una cosa veramente che stanno, si mettono dietro a quelli, ai intervistatori delle televisioni, mettono dietro là e stanno ore là dietro a questo qua con i loro cartelli. No, vedi che è una sentenza di un tribunale, non ti piace. Ma è una sentenza di un tribunale, ma mica è una partita di calcio. Ma cosa fanno lì? Adinolfi, cosa fanno lì? Cioè, non è che sono esattamente questo. Hai detto, Alessandro, cioè è vissuto tutto come una partita di calcio, quindi con la insieme tensione e farsa che una partita di calcio trasportata in una serie di tribunali di giustizia porta con sé. Cioè, da questo punto di vista è la drammatica cialtroneria italica, devo dire la verità. Manca il senso della giustizia in tutto questo, perché c'è attorno un velo, un alone di cialtroneria. Sì, questo sì. È purtroppo il... Ma è un po' così. Manca pure da tanti anni il giornalismo, quello là che c'erano i giornalisti che andavano e seguivano i processi e poi scrivevano e si facevano i loro convincimenti. Non c'è più questo giornalismo qua. No, ma infatti c'è questo, sì, un po' è un livello di cialtroneria, la gente che urla, fa disfa, ma io non lo so. Vincino, starai a Piazza Fardese oggi alle 19, dove il tuo... Credo di no. Attenzione, Vincino. Ho disegnato prostitute, ma non mi ci sono disegnato. Devo Vincino dire. Contro il suo direttore Ferrara. No, come dire, non. Il manifesto del Foglio, siamo tutti puttane, sì. E tu li hai disegnati come delle puttane. Adinolfi, c'è Giuliano Ferrara travestito, disegnato da Vincino come una puttana sul Foglio. Che... è una cosa con questa barba rossa, me la vado a vedere subito, stai fatto, con questa barbona rossa che tiene Berlusconi in braccio. Vincino, ma dove te la sei sognata questa cosa? Tra le 5 e 6 del pomeriggio, no, su richiesta, quando ho chiesto di fare questo disegno mi sono divertito a farlo. Ferrara puttana barbuta di rosso barbuto. Ce ne sono altri, sì. C'è metà redazione là dentro, anche no? Altri, ma chiaramente Giuliano Ferrara è quello che spicca di più. Certo. Vabbè, andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Alessandro, come mai in Italia gli insegnanti hanno almeno 2 mesi di vacanza e in questi 2 mesi si grattano il pancino e per fare recuperare i debiti scolastici a chi non ce la fa, quelli che restano li paghiamo a 50 euro l'ora. Ciao, bello. Caro Milan, volevo dire alla Regione Lombardia, per far cassa, di vendere tutte le case popolari velocemente. Ma il Fanno per caso ha bevuto qualche bicchierino di troppo? Ma non è lui il vicepresidente del Consiglio? Ma come mai che minaccia il governo? Oddio, in che mani stiamo? Oddio, che banda di ladri! Pentitevi, vi dovete pentire, siete ancora in tempo, pentitevi. Certo che questi del giornale di Libero sono proprio dei cattivi. Chi è che se ha 2 case non ha la residenza in palestra? E chi è che se ha la palestra non l'affida a un'associazione che ci fa andare tutti così a gratis? Certo che questa idem è proprio generosa, Non è che mi regala anche a me qualcosa. Ma va, va, ci prendono per il culo! Ciao Milan, buongiorno, ascolta, quando tu tutte le mattine ci propini quei titoli sui giornali, di scandali, politica, secondo me tu ci godi, noi soffriamo e tu godi, ti facciamo godere tutte le mattine. Ciao Milan, a saluto. Adesso ci sarà la tranche dei 91 milioni da dare ai partiti. Questi dicono il governo del fare, ma di fare non c'hanno proprio nulla. Questi sono dei maledetti che ci tritano solo a noi. Allora, no, volevo dire quello che voi, che io leggo le cose, noi soffriamo e tu ci godi. Oh, ma io sono italiano come voi. Cioè, godi, è vero. Ma che figlio. Godi? Ma io sono nella stessa barca, ma non è che... Cioè, chi sono io? No, io non riesco a uscire da questo ritratto di Giuliano Ferrara fatto da Vincino oggi sul Foglio, con minigonna, tacchi a spillo, polpacci, una roba da 130 kg al garrese, una roba, anche la barba teheraniana, devo dire, gli hai fatto proprio, no? Barba da mullah, da Maulawi Ferrara più o meno. Vabbè, comunque, Maria Dinolfi, c'è anche la vicenda di Josefa Idem, che quatta silenziosa, approfittando del fatto che tutti parlavano di Berlusconi. Io lo scrivevo a un certo punto: Idem, dimettiti adesso che non se ne accorge nessuno, forza, fallo adesso, che così sarà mezza paginetta domani sui giornali. E si è dimessa. Non poteva diciamo, la situazione era ovviamente compromessa anche da lei stessa, forse dalla sua conferenza stampa, insomma, ha fatto delle considerazioni un po' che l'hanno evitato proprio. Ma qualcuno l'ha portato però a Palazzo Chigi a fare quella conferenza stampa? Con l'avvocato. Cioè, come dire, Letta gli avrà dato il permesso di andare là e fare la cosa con l'avvocato? Io ho detto, è la prova che in politica non ti improvvisi. Sì. Continua a essere questo, cioè tra politica è un territorio tosto, insomma, questo è la questione che si continua ad apprendere. Voglio dire un'altra cosa, sempre collegata alla vicenda Berlusconi. Guardate che il potere vero si sta spostando, il potere politico, tutto fuori dal Parlamento. Provate a guardare adesso la situazione, i cinque più potenti, Grillo, Renzi, D'Alema, Veltroni e a questo punto pure Berlusconi. D'Alema, tutte e cinque ex parlamentari, per D'Alema conta. D'Alema c'entra sempre, io lo dico, D'Alema c'entrerà sempre. E anche Veltroni. Non sottovalutare Veltroni, che secondo me uno è continuo a lavorare molto sotto traccia. Ebbene, tutti questi, se adesso Berlusconi verrà interdetto dai pubblici uffici, saranno tutti extra parlamentari. Avremo questa strana situazione per cui l'extra parlamentarismo, Vincito, magari si ricorda, diventa una cosa del potere. Io, che cosa mi ricordo? Sì, extra parlamentarismo 2.0, questo è, Vincino, caro mio. All'opposto dell'extra parlamentarismo anni 60. Esatto. Adesso quelli che contano stanno fuori dal Parlamento. È quasi sempre successo così. Berlusconi sta ancora dentro, non è che... Ci va una volta all'anno, non è che esatto. Ci va proprio male. Non ci va, D'Alema ancora. Oh, ma a proposito, visto che siete di Roma, conoscete Roma, Marino, che sta un po' inguaiato a far la giunta, ha fatto ancora un appello. No, ancora no. Vuole anche un grillino. Ha detto: dateci uno del Movimento 5 Stelle, indicate un nome, e soprattutto c'è l'assessorato agli stili di vita. Le fregnacce di sinistra, no. Le fregnacce di sinistra. Mettiamo alla romana, Adinolfi, assessore agli stili di vita. Assessore agli stili di vita. Cosa proporresti come assessore agli stili di vita, Adinolfi? Come prima cosa? Dai, Bucatini è la matriciana per tutti. Anche a colazione, tu Vincino, cosa proporresti come assessore agli stili di vita? Sì, io, guarda, sì. Cioè, credo che l'assessorato proprio nel quale io assessorato al disegno, altre cose, alla ma pittura, gli stili di vita proprio, assessore all'arte. No, ma vogliamo dire che c'è la sorella del ministro Barca che è in corso per l'assessorato. È vero, che c'è il ministro Barca, adesso c'è la sorella del ministro

sui nuovi Playboy. E chi sono? Gianluca Passi, no, nobile, il nobile Gianluca Passi con Jessica Chastain, oppure Alex Dellal, boh, chissà se questo è il nome giusto, Giuseppe Cipriani e le sue feste a Patmos e Mykonos in Costa Smeralda, e poi Stavros Niarchos, chi non lo conosce, il nuovo Playboy che fu anche picchiato a sangue nel 2007 da un uomo perché aveva allungato gli occhi sulla sua amica. Fiori, feste esclusive, ecco chi sono i nuovi seduttori, i nuovi Playboy. Come mancare questo articolo, cari amici del Corriere? La carta costa. Prima di fare questi articoli, pensiamoci quattro volte. È tempo di giornale radio. Mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di cosa parliamo? Oggi parliamo della sentenza Ruby, il processo Ruby, una sentenza di primo grado, lo ricordiamo, una sentenza dura, durissima per Silvio Berlusconi, ancora più dura della richiesta che era stata formulata dalla pubblica accusa. Silvio Berlusconi è stato condannato a 7 anni di carcere e interdizione perpetua ai pubblici uffici, perché è stato ritenuto colpevole di 2 reati, prostituzione minorile, insomma, secondo il tribunale fece sesso con Ruby sapendo che Ruby era minorenne all'epoca, 17 anni, e concussione per costrizione, cioè chiamò alla questura di Milano, fece pressioni affinché Ruby quella notte in cui era stata fermata fosse affidata a Nicole Minetti. Per carità, non facciamo una premessa dando il numero verde per intervenire ai nostri ascoltatori, 800 24 0024. Non è che siamo qui a fare o a rifare il processo, perché in una trasmissione radiofonica non è questo il nostro compito, non rifaremo il processo. Devo dire che io personalmente non sopporto neanche quel becero tifo, quelle cose che sono successe ieri. Tribunale. Ecco, per non andare in galera. Queste cose qui di cittadini comuni. Ecco, Berlusconi che viene da pensare veramente se le persone non abbiano un lavoro, un'occupazione, una bocciofila dove andare a passare del tempo, a giocare a carte, un'associazione di volontariato in cui spendere le proprie ore in maniera più sana, un libro da leggere. Comunque, la cosa di cui vorrò parlare soprattutto è, alla luce di questa sentenza e di altre sentenze, che succede ora con i miei ospiti, soprattutto dal punto di vista della tenuta politica. Voglio salutare il direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore, eccoci. Buongiorno a voi. Che oggi titola Macelleria e che nell'editoriale scrive la frase che mi ha colpito: stiamo parlando di Berlusconi, certo un galantuomo, un matacchione, sì, ma di gran lunga moralmente più integro dei suoi accusatori e giudici, il che rende di maggior gusto resistere a questa porcata e alle prossime. Saluto anche il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno direttore, eccoci. Buongiorno a voi. Oggi invece Padellaro, nel suo editoriale intitolato Una buona giornata per la Costituzione, parla della vicenda Berlusconi, ma anche della vicenda idem, della vittoria anche del Movimento 5 Stelle a Ragusa, e soprattutto, direttore Padellaro, mi ha colpito il titolo, da cui forse vorrei partire, il sottotitolo: la vergogna vera è governare insieme a lui. Ecco, partiamo da qui, cioè alla luce di questa che non è neanche la prima condanna, ma non è una condanna definitiva come quella in appello Mediaset. È una vergogna governare con Berlusconi? Beh, io non mi meraviglio certamente che il mondo vicino a Berlusconi si indigni, si stracci le vesti per la sentenza, quindi mi sembra tutto regolare. E quello che non riesco a capire, e credo che non lo capiscono in molti, è l'atteggiamento del Partito Democratico, no? Cioè il Partito Democratico che si nasconde dietro la formuletta le sentenze non si giudicano, si rispettano. Dovrebbe un po' uscire da questo equivoco, perché sì, va bene, si rispettano le sentenze, d'accordo, però una posizione un pochino più netta andrebbe presa. Allora, o Berlusconi è quello che dice la sentenza di primo grado, naturalmente aspetteremo gli atti gradi di giudizio, cioè è un signore che ha corrotto una minorenne e ha fatto delle pressioni incredibili sulla questura di Milano per bla bla bla bla, e quindi non si capisce come si possa governare con un simile personaggio. Oppure Berlusconi è una vittima della magistratura cattiva che si riunisce la notte, no? Questi complotti che fanno, non so se avete visto i tre giudici donne che hanno emesso la sentenza, avevano proprio l'aspetto di tre persone che la notte, no, fanno riunioni carbonare, e allora se è un innocente perseguitato lo dicano. Cioè la sentenza è quella che è, e poi vedremo se ci sarà modo di approfondire alcuni aspetti, ma lei ha già detto che forse è meno interessante. No, vabbè, ma sarà interessante anche questo. No, perché io credo che l'aspetto politico sia però quello prevalente. Allora, delle due l'una, il Partito Democratico decida cosa vuole, se o l'una o l'altra cosa. Insomma, il Partito Democratico. Mi interessa capire anche al direttore Sallusti perché questa frase, che effettivamente suona molto anche provocatoria, no? Di Berlusconi, Mattacchione, sì, ma di gran lunga moralmente più integro di giudici accusatori. Che hanno di male queste tre donne, e Padellaro oggi ne ricorda in realtà quattro che andrebbero ricordate nella storia della Repubblica, oltre alle tre che hanno giudicato anche Ilda Boccassini. Ma non so cosa ci sia di, come dire, di eroico nel impiegare milioni di euro e decine e decine di personale inquirente nel, per spiare cosa succede di notte nella casa di un privato cittadino. Lo trovo anche disdicevole, ma soprattutto lo trovo imbarazzante, e forse da qui l'imbarazzo del PD, perché è imbarazzante che per sostenere fino in giudizio la tesi della Boccassini si decida, cosa che non ha precedenti, che chiunque durante il processo abbia sostenuto il contrario o smontato quella tesi abbia commesso falsa testimonianza. Cioè, siamo arrivati ormai, non è un accanimento giudiziario, è veramente macelleria del diritto, perché nel diritto italiano il giudizio si deve formare in aula, in base alle testimonianze in aula. Ora, se ci sono 30 testimoni diretti e indiretti che dicono guardate che lì non è successo nulla, se ci sono dei funzionari di questura che dicono guardate che noi non siamo stati per nulla concussi, abbiamo agito liberamente secondo la prassi e le norme, ma addirittura non solo non ne viene tenuto conto e passi, ma siccome se non ne tieni conto non puoi emettere una sentenza di colpevolezza perché non è possibile, allora cosa ti inventi? Ti inventi che quei signori commettono falsa testimonianza. Beh, inventi, poi si vedrà. Siamo un processo bulgaro. È la tesi evidentemente del tribunale, cioè hanno stabilito evidentemente che qualche pressione, magari anche economica, ha portato 30 persone, ha indotto 30 persone a dare non una so, io lei sta dicendo che il tribunale sostiene, e forse lo sostiene anche Padellaro, che Berlusconi abbia dato dei soldi a un funzionario di questura per dire che non è stato corrotto. No, magari non dirigente di questura. No, lei è stata la dirigente di questura che dice io non sono per nulla stata concussa, ho fatto quello che dovevo fare. È stata, come dire, incriminata di falsa testimonianza. No, i soldi sono perché sicuramente... non ha detto quello, certo, che la Boccassini voleva che lei dicesse. I soldi in maniera accertata sono arrivati ad altri testimoni, cioè le cosiddette olgettine, forse, non lo so, ma qui ripeto sono interpretazioni. Ma sono incriminati degli onorevoli, dei deputati, dei senatori. Berlusconi paga direttamente anche questi signori, allora possiamo sostenere tutto, allora possiamo sostenere anche che qualcuno paga i giudici, perché se non c'è la prova non è che si può sostenere che Berlusconi paga una funzionaria di questura, paga dei deputati e dei senatori per dire il falso, perché allora io sostengo senza nessuna prova che qualcuno paga quelle tre signore per emettere quella sentenza, punto, è una mia idea. Allora, su questo risponda tra un attimo Padellaro, però Sallusti, aggiungiamo anche la questione politica, cioè quello che diceva Padellaro sul PD, effettivamente si può governare e fare un governo di larghe intese, se non con Berlusconi, non è in prima linea impegnato nel governo, ma sappiamo, insomma, col partito di Silvio Berlusconi, alla luce di queste condanne. Effettivamente o uno dice quello che ha emesso il Tribunale di Milano, sebbene non definitivo, non ne teniamo conto, oppure ne teniamo conto, come si fa a non... Ma io ribalterei il discorso, mi chiedo se il PDL può ancora governare con un partito, il PD, che per tutti questi anni e tuttora si rifiuta di mettere mano a una riforma della giustizia che per esempio separi le carriere dei PM da quella dei giudicanti, e così magari non accadono più cose come quelle che abbiamo visto ieri. Cioè, mi chiedo se l'imbarazzo non è reciproco. Forse sì, il nome di questo imbarazzo reciproco forse ci si regge, però è uno degli elementi effettivamente di cui si discute adesso, cioè che succederà dal punto di vista del PDL e Padellaro, sia su questo fronte politico, cioè il PDL adesso potrebbe arrivare a una sorta di rottura, tutti sono attenti a vedere le mosse prossime di Silvio Berlusconi, e poi sul fronte del giudizio, dice Sallusti, insomma, la procura ha deciso che 30 persone o di più hanno mentito tutti in blocco in nome di un qualche complotto pur di ribaltare un verdetto. Beh, partiamo da questa seconda parte. La procura pensa di avere degli elementi per dire questo, e ha trasmesso alla procura il relativo incartamento. Ma qui bisogna però capirsi. Le ragazze, le cosette oggettine, che siano, diciamo, dicevano la paghetta, ecco, voglio usare un termine affettuoso, da Berlusconi da un po' di tempo, insomma è cosa provata, che rubi rubacuori, usiamo il nome d'arte, insomma abbia cambiato il suo tenore di vita grazie alla generosità, per carità, Berlusconi è un benefattore, lo sanno tutti. E invece parliamo dei funzionari rapidamente. Lì c'è la questione della nipote di Mubarak, no? Ecco, bisogna ricordare che Berlusconi ha chiamato alcuni alti dirigenti dello Stato, uno dei quali oggi è vice ministro degli esteri, a testimoniare il fatto che lui aveva effettivamente interpellato Mubarak durante un incontro ufficiale, sì, chiedendogli se Ruby fosse sua nipote. E loro hanno testimoniato dicendo: ma certamente sì, fu quello, se ne discusse. Sì, ora, cioè gli fece questa domanda, sì, che ne sa qualcosa, presidente, di una tale Ruby. Ma poi lasciamo stare, comunque vedremo cosa farà la procura. Il problema politico, che mi sembra in questo momento più interessante, io penso che Berlusconi abbia un unico interesse in questo momento: restare aggrappato a questo governo, perché questo governo è l'unica scialuppa di salvataggio in una situazione, per lui bisogna dire, piuttosto critica, perché la sentenza di oggi è durissima, certamente. Poi tra pochi giorni la Cassazione dovrà decidere sul maxi risarcimento De Benedetti per la vicenda Scir. Poi c'è la questione della compravendita di senatori a Napoli. Possiamo dire una cosa, cioè, Berlusconi è un uomo sfortunato, cioè ha veramente tanti problemi, certamente inventati dalle procure cattive, ma insomma, io chiederei a Sallusti se ogni tanto gli capita di riflettere sulla catena incredibile di disavventure di Berlusconi. E questo è il tema, cos'è? È sfortunato? È una congiura, Sallusti, prima della pubblicità? No, io ci rifletto moltissimo su questa sfortuna, e mi chiedo a Padellaro di riflettere se secondo lui è possibile che un cittadino venga processato 24 volte nel corso di 18 anni e altrettante 24 non vada a processo semplicemente perché le accuse erano talmente fantasiose che non arrivano nemmeno a processo. Ma non esiste un precedente di una persona giudicata per 24 volte per 24 reati diversi. Anche questa è una simpatica cosa. Ma la domanda di Padellaro era se lei si chiedeva se fosse sfortuna oppure no, io credo che sia veramente sfortuna essere processati 24 volte, credo che sia una persecuzione giudiziaria è nei numeri, non è in un'idea. Dopodiché credo che la scialuppa di salvataggio di Berlusconi, come in questi ultimi 18 anni, non siano mai i governi ma siano gli elettori, perché ogni volta, nonostante 24 processi, dagli 8 ai 14 milioni di italiani hanno detto: a noi non ce ne frega nulla, abbiamo fiducia in questa persona e quindi la votiamo. Quindi non credo che Berlusconi stia aggrappato, semmai dentro il PDL c'è qualcuno che è aggrappato a questo governo, ma Silvio Berlusconi, credo che sia l'ultimo problema suo è di stare aggrappato a dei governi. Questo è un punto da cui voglio ripartire tra pochi minuti dopo la pubblicità con Alessandro Sallusti e Antonio Padellaro. 800 24 00 24, anche il vostro contributo, cari ascoltatori, che ne pensate? Berlusconi, dice Sallusti, non è tanto aggrappato alla cadrega politica, usiamo un termine così molto milanese, ma è aggrappato al fatto che gli elettori, e questo nella storia è sempre stato così, nella storia degli ultimi 20 anni, lo hanno votato nonostante tutte le vicissitudini giudiziarie. Si può reggere il governo di larghe intese su queste sentenze? Che ne pensate tra poco? 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti, 800 24 00 24, per intervenire. Il caso Ruby, la condanna in primo grado a Berlusconi e le possibili conseguenze politiche. Vorrei sentire Salvatore da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, signor. Volevo dire questo, non sarebbe il caso che, non riesco a capire questa difesa a oltranza che fa il PDL per Berlusconi, le quali ci sono state, le paghette ci stanno. Il direttore Sallusti continua a dire che come Berlusconi avrebbe pagato i testimoni, così qualcuno ha pagato i giudici. Io posso anche pensare che Berlusconi paghi lui per farsi difendere. Sarebbe opportuno che Berlusconi si mettesse un poco da parte. Era una provocazione, Salvatore, era un'idea, una provocazione per assurdo. Siccome Sallusti, siccome Sallusti dice l'idea è che 30 testimoni siano stati imbeccati e quindi ora rischiano di essere processati per testimonianza insomma falsa, allora Sallusti dice: allora io posso pensare che quei 3 giudici siano stati pagati da qualcuno per fare una sentenza. Però dica, Salvatore, cioè secondo lei dovrebbe farsi da parte Berlusconi? Sì, perché sarebbe molto meglio, insomma, cioè che tutta questa difesa estrema di Berlusconi, il processo si farà, se è innocente. Oltretutto un presidente del Consiglio che telefona in procura è sprovveduto, perché basterebbe telefonare al segretario, basterebbe portare questo. Sì, lei dice tutto è nato così, in questura comunque chiamo. Grazie, Salvatore. Vorrei rimanere a Napoli da Gennaro, anche Gennaro ci chiama da Napoli, giusto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica, Gennaro. Io volevo fare solo 2 osservazioni. Una era il fatto che Berlusconi aiutasse solo esclusivamente belle ragazze e maggiorate. L'altra invece è che comunque Berlusconi viene seguito da 8 milioni, 9 milioni, ma per una forma di ideologia politica. Morto Berlusconi ci sarà un altro leader, ma quindi non è che si va dietro Berlusconi, si vuole Berlusconi per la simpatia verso Berlusconi. Guardi, su questo, Gennaro, molti invece pensano, anche il sottoscritto, che il centrodestra sia Silvio Berlusconi. Infatti appena Silvio Berlusconi si è fatto un po' da parte, i sondaggi davano ai minimi termini il PDL. Cioè solo Berlusconi è in grado di vincere le elezioni o perderla di poco, però lei dice invece fuori Berlusconi ci sarà un altro nel centrodestra. Assolutamente, io diciamo più altro faccio pretendere che non saranno più 8 milioni, forse che con l'uscita di Berlusconi ci saranno quei famosi 2 milioni che ricordo, 2-3 milioni verso Berlusconi, ma sicuramente non è che morirà la destra italiana. No, ma è chiaro, questo no, però credo che diminuiranno di molto i voti. Comunque la ringrazio, Gennaro. Siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Sallusti, le vorrei chiedere questo: ieri c'è stato il fatto anche della dimissione di Josefa Idem da ministro, una notizia che giustamente avete messo sia lei sia Padellaro in prima pagina, anche per delle decisioni e dei comportamenti sicuramente sbagliati, ma minori dal punto di vista della gravità dei fatti, no? Furberie forse all'italiana, tutte da dimostrare, poi presunti abusi edilizi, il pagamento dell'ICI un po' da vedere. Ecco, un italiano effettivamente dice: ma come, Josefa Idem si dimette e invece Silvio Berlusconi siamo sempre lì a dire è un accanimento giudiziario con condanne molto pesanti. Diceva me? Sì, Sallusti. Ma anch'io ritengo che le accuse non sono accuse, perché Idem ha ammesso di aver fatto dei pasticci, non è che c'è sì, tra l'altro c'è anche un'inchiesta giudiziaria, ma non è quello il problema, sono cose abbastanza banali e normali in Italia. Stupisce che le faccia una tedesca, perché lei è tedesca, quindi questo la dice lunga. Eppure si dimette. Però io credo che la Idem si sia messa nei pasticci da sola, perché il tipo di giustificazioni, prima le omissioni, poi le giustificazioni, quel dire ma io sono una campionessa del mondo, non un commercialista, è sembrato un po' come il caso Scajola, cioè la casa sua insaputa. Sì, sì. È stata peggio la pezza del buco, e quindi si è messa in un pasticcio politico e mediatico con le sue mani. E credo che abbia pagato questo più che il fatto in sé di una presunta evasione. Però che cosa insegna Padellaro? Non lo so, che è meglio la miglior difesa è l'attacco, cioè di fronte anche accuse pesanti, anche condanne, Silvio Berlusconi invece dice no, è un accanimento giudiziario, state tutti con me, dimostrerò che questi giudici sono persone che si accaniscono e così tiene duro. Ecco, questo è l'insegnamento che si può avere accostando le due vicende. Ma io penso questo, che Berlusconi certamente si difende con le gigantesche armi che ha, perché insomma Berlusconi non è un comune cittadino, è un uomo ricchissimo, un uomo potente, è un uomo che ha stuoli di giornalisti, che ha televisioni, che ha, diciamo, insomma, veramente. Descrivere Berlusconi come un po' come un integerrimo matacchione perseguitato, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Però mi sembra che vabbè, rispetto alla Idem, evidentemente la Idem è un'atleta brava, rispettata, che insomma si è trovata in questa situazione in cui si è messa lei, sono d'accordo, e quindi ha pagato le conseguenze, anche perché è stata sfortunata. Perché la Idem ha avuto il colloquio decisivo con Letta il giorno della sentenza di Berlusconi, sì, e quindi io penso che Letta abbia, insomma, per Letta era difficile dire Berlusconi viene condannato a 7 anni e la Idem la fa franca, ecco. Però come se fossero, sono cose tra l'altro completamente per gravità diverse, riguardano il gioco della politica. Però se permette, io volevo dire una cosa, perché mi ha colpito una frase di Sallusti quando diceva che non è Berlusconi aggrappato a questo governo, altri del PDL sono aggrappati a questo governo. Ecco, io vorrei capire se c'è in Sallusti e in altri l'idea che forse questo governo, non si arriva, il governo delle larghe intese, si è rivelato alla fine un bluff per gli interessi di Berlusconi, il quale credeva che questa alleanza con il PD, qualcuno gliel'ha fatto credere, lo avrebbe in qualche modo protetto, no, dal cosiddetto accanimento giudiziario. E avendo visto che invece la giustizia va per i fatti suoi e non segue certamente quello che dice il Partito Democratico, forse, ecco, volevo capire se secondo Sallusti È così, staccare la spina. È così Sallusti, cioè un Berlusconi deluso, dice altro che pacificazione, ste larghe intese mi stanno a fottere in realtà. Beh, immagino di sì, nel senso che alla base delle larghe intese c'è anche un patto di pacificazione nazionale tra le parti politiche, e credo che le parti politiche si aspettassero anche una pacificazione dal punto di vista della guerra giudiziaria. Più che la sentenza di ieri, fa testo rispetto a questo, la sentenza della Corte Costituzionale dell'altro giorno. Sì. La Corte Costituzionale non è che ha emesso un verdetto su un'ipotesi di reato, ha detto che le decisioni della magistratura vengono, le esigenze della magistratura vengono prima delle esigenze della politica. Ma è vero che Berlusconi su quello si e sarebbe quindi sentito, questa è una sentenza politica sulla quale si sarebbe sentito tradito addirittura da Napolitano. È vera questa cosa? Perché alcuni giudici, se non vogliamo essere ipocriti, immagino che Napolitano, il parere, l'opinione di Napolitano abbia, come dire, un peso morale su altri organi costituzionali, tipo appunto la Corte Costituzionale. Si prende atto che così non è, che quindi Napolitano non può garantire quel riequilibrio dei poteri dello Stato che forse era la base anche del governo delle larghe intese. E quindi chiede Padellaro se secondo lei Berlusconi è proprio intenzionato, e lo farà, lei è un po' Berlusconi, lo conosce meglio di noi, a staccare la spina. No, non credo che ci sia una cosa diretta, cioè siccome mi hanno condannato stacco la spina. prendo atto che quel patto di pacificazione nazionale non c'è, e quindi, come dire, sarò con più, la spina, ma immagino che dica, sarò più severo nel pretendere che i patti politici vengano rispettati, e quindi sicuramente il governo rischia. Sì. Il governo rischia. No, perché in maniera diplomatica però sta dice sì, no, non è che siccome mi condannano il giorno dopo stacco tutto, però insomma, visto che non c'è più quel patto promesso, il governo rischia, questo è il dato di fatto, da cui rientriamo tra un attimo dopo il traffico con Antonio Padellaro. Insomma, Antonio Padellaro, traducendo e leggendo un po' anche tra le pieghe abbastanza diplomatiche di Alessandro Sallusti, mi pare di capire, mi dica se sbaglio, che forse Berlusconi non è che può dire mi condannano e faccio cadere il governo, altrimenti molta gente potrebbe dire vabbè, ma allora ecco, vedi, lo fai per i tuoi guai. Ma ci sono tanti pretesti, sarà l'IVA, sarà l'IMU, risolveranno questi problemi, sarà l'Europa, sarà l'euro, sarà un qualsiasi argomento del programma del PDL per dire ecco, non rispettate i patti, e allora sapete che c'è, questo governo delle larghe intese non può più andare avanti. Ma per fare cosa poi? No, non lo so, diciamo, la politica segue anche delle strade strane. Io dico, prima dicevo che Berlusconi è aggrappato, perché Berlusconi sa fare politica e ha capito perfettamente che se cade questo governo, che per lui, diciamo, è una garanzia, comunque è la massima garanzia politica che poteva avere, ce ne sarà un altro di governo, lo sanno tutti che Napolitano non scioglie le camere, e magari sarà un governo tecnico che non avrà questa base politica, quindi anche che sarà meno garantista nei suoi confronti, ammesso che questo lo sia. Dopodiché si andrà alle elezioni. Prima Sallusti diceva, e ho apprezzato il fatto che abbia detto, ha preso dagli 8 ai 16 milioni, ai 14 milioni di voti Berlusconi, è vero, però adesso siamo agli 8 milioni di voti, insomma, ne ha persi 6, quindi non credo che se si andasse alle elezioni ci sarebbe questo straordinario successo, anche perché le ultime amministrative sono state una caporetto per il Popolo delle Libertà. Volevo dire una cosa a proposito della pacificazione, che è un termine che mi affascina, no? La pacificazione, sì, tra PD e PDL, come se il PD avesse combattuto il PDL in una guerra civile. Quello che dice Sallusti è interessante, perché che cosa si aspettava, almeno la sua interpretazione, Berlusconi? Che Napolitano potesse, non so, influenzare la Corte Costituzionale, non so, magari telefonando ai giudici costituzionali. Aveva parlato dicendo, di influenza morale, influenza morale. Di pacificazione, vedete un po' voi. Ma insomma, io trovo abbastanza incredibile che si possa pensare a una cosa del genere. Ma in realtà parlava più di influenza morale, insomma, alcuni giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal capo dello Stato. Mi dica una cosa, ma cos'è l'influenza morale? Che cos'è? Napolitano declama la mattina preghiere, non so, delle orazioni in favore di Berlusconi. Questo non credo, ma credo l'interpretazione, ma vorrei da Sallusti, è che il fatto che alcuni giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal capo dello Stato, e quindi quei giudici dovrebbero in qualche modo rispondere, dico un'eresia per qualcuno, a un, non dico un input diretto, oppure sì, Sallusti, cioè che doveva fare, telefonare Napolitano a questi qui? Il capo dello Stato sia una bella statuina messa lì a riempire le stanze del Quirinale, non è così. Il capo dello Stato è il garante degli equilibri, del garante della Costituzione, e anche quindi di conseguenza degli equilibri tra i tre poteri dello Stato, e in quanto garante i garanti si muovono nello scacchiere rispettando le leggi, rispettando le cose, ma non è che sono lì come dei avrebbe come dovuto dei e potuto telefonare, magari orazioni no, ma qualche intervento un po' più deciso sì. Fatemi sentire Sergio D'Alecco, due ascoltatori. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, io premetto che non ho votato Berlusconi, e quindi... Sì, ma chi se ne frega, no, insomma, dica la no, sua... No, perché sennò poi dopo immagino già che i suoi ospiti, il pensiero, quello tira da una parte, quello tira... No, ma guardi, qua non giudichiamo, dica. No, io volevo dire che io penso, al di là del discorso Berlusconi, penso che la giustizia in Italia proprio non funzioni. Ormai sono anni che vediamo ste cose, l'abbiamo visto con Craxi, con Andreotti, con Del Turco, Berlusconi e tanti altri che adesso noi comuni cittadini, sì, non seguiamo e non conosciamo, no? Beh, lei mette insieme questo... tutti, però ogni processo e ogni storia giudiziaria è diversa, però lei mette, lei accomuna tutti questi casi, Andreotti, Craxi, Berlusconi, però vedi, Del Turco. Io abito in provincia di Lecco, sì, però diciamo sono sul confine di Monza Brianza come provincia, quindi frequento Monza, sì, spesso, sì, no? E si vocifera, si sussurra, si spettegola una storiella non so quanto vera, che a Monza c'è stato un magistrato che ha avuto una grossa discussione con un suo vicino di casa e questo è stato distrutto. Hanno avuto una discussione E quindi voglio dire, cioè, lei dice c'è un potere della magistratura. La magistratura è un potere che va al di fuori di quello che è il Parlamento, di quello che sono le cose classiche di una democrazia. Va bene, no, ma è chiaro, questo è il suo pensiero, cioè lo strapotere della magistratura. Grazie Sergio. Nicola da Campobasso, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. Buongiorno, allora io premetto che sono un elettore di centrodestra. Sì, va bene, ma non è che dovete dovete dire cosa avete votato, però dica Nicola. Quelli che decidono chi deve governare, perché siamo noi di centro che decidiamo se votare a destra o a sinistra, perché quelli di estrema destra e estrema sinistra votano sempre lì e non decidono chi deve governare. Vabbè, che pensi? Allora, questa brutta storia che ve ne state occupando stamattina, io c'ho in mente una cosa, cioè ho capito che da parte della procura, se è in buona fede, si sta facendo e si ha fatto il proprio dovere, è quello di perseguitare la prostituzione, se non mi sbaglio, è vero? Quasi. Perseguitare, cioè, hanno detto che Berlusconi ha avuto rapporti sessuali con una minorenne che per legge non si può fare, non si può fare, va bene. Allora, io mi auguro che almeno una cosa questa ci possa insegnare: l'Italia, le città italiane, i marciapiedi delle città italiane sono pieni di prostitute, forse anche minorenni. Mi auguro che le procure italiane applicheranno lo stesso sistema per perseguitare anche queste cose. Io ho una figlia che studia a Firenze, sì, e che la sera va in palestra e percorre un viale dove è pieno di prostitute. Quindi lei dice, Nicola, vede Nicola, visto che siamo in chiusura, vede un troppo accanimento nella vicenda Berlusconi-Rubi e vorrebbe che la stessa attenzione le procure di tutta Italia la manifestassero per tutte le prostitute minorenni che si trovano lì. Vabbè, c'è anche la concussione, però insomma, per tirare le fila, Padellaro, orazioni no, ma moral suasion sì, per tornare sulla questione politica. Questo diceva Sallusti. La moral suasion, che poi è una invenzione, sì, possiamo dire, di noi giornalisti, perché non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica debba esercitare questa moral suasion. Comunque, stiamo parlando della Corte Costituzionale, cioè di un potere autonomo, tratto che la Corte Costituzionale è un potere altissimo. Cioè, io penso che sia veramente incredibile pensare che chiunque possa condizionare il giudizio della Corte Costituzionale per arrivare alla cosiddetta pacificazione. Ma non scherziamo, in realtà si voleva un'altra cosa, molto brevemente, si voleva che questo governo delle larghe intese fosse una specie di coperchio per i processi di Berlusconi. Così non è stato, perché mi dispiace, ma la magistratura è a sua volta un potere autonomo. Però che può sbagliare. Non credo che Letta, vedremo, non credo che, ma non secondo lei, scusi, né dal Partito Democratico né dal Napolitano. Ma secondo lei anche Enrico Letta avrebbe voluto questo, cioè fare una coperchio? Non credo, ecco. Non credo neanche io. Rigoletta cerca di fare disperatamente qualche cosa per questo paese, non ci riesce, perché un governo, questo diciamo la verità, è anche un governo debole, e sarà un governo ancora più debole dopo quello che sta succedendo. Infatti, sulla questione Berlusconi. No, ma è chiaro, su questo però si fermi, altrimenti sforo, come sempre, come dico tutti i giorni. Ringrazio Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, ringrazio Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, da Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, un saluto, a domani.